احلام شي يوم راح تاكلك وانا اصلا هيك هيك مش مرتاح لك تعطي زكك كم من مليون شكل الوضع عم بيزيد عداخلك شوف لوين المصاري بتاخدك بتجيبك وبتوديك وزحوات تتذكر شي من ماضيك بتنسيك. Torniamo in diretta, silenzio assordante su Radio Onda Rossa. Iniziamo questa prima lunga parte della trasmissione dedicata alla lotta No TAV in occasione del processo in Cassazione per i fatti del 27 giugno e 3 luglio 2011 e per lanciare l'iniziativa di solidarietà a cominciare dal presidio che si terrà la prossima settimana. Leggiamo subito l'indizione, il manifesto di indizione. Ancora una volta si parte e si torna insieme. 11 aprile 2018, il presidio dalle ore 11 alle ore 15 in piazza Adriana, che è attigua a piazza Cavour, quindi la sede della Cassazione. Durante quella mattina si terranno spettacoli, aggiornamenti dalla valle, una mostra fotografica, musica, ci sarà da mangiare, tutto in solidarietà ai No TAV durante l'udienza di Cassazione del maxi processo per le giornate di lotta del 27 giugno e 3 luglio. E allora cominciamo questa parte di silenzio assordante leggendo un comunicato che viene dal movimento No TAV e che ci parla di quelle giornate. E appunto sì, il comunicato e l'appello del movimento No TAV dal titolo "Ancora una volta si parte e si torna insieme sempre". L'11 aprile la Cassazione emetterà la sentenza definitiva sul maxi processo No TAV, un processo di chiara connotazione politica nel quale sono stati imputati 53 No TAV per le giornate del 27 giugno, lo sgombero della Maddalena e l'assedio al cantiere del 3 luglio 2011, che in primo grado si è svolto in un clima surreale, con udienze settimanali nell'aula bunker del carcere delle Vallette. La magistratura ancora una volta ha dimostrato con un'accusa strumentale e feroce, combinando pene esemplari, il chiaro intento intimidatorio nei confronti di tutto il popolo No TAV. In primo grado erano state 47 le condanne, per un totale di 142 anni e 7 mesi di reclusione in tutto, con pene inflitte dalla Corte che hanno superato persino le richieste della Procura. Una vendetta di Stato la definimmo allora e lo ribadiamo oggi, perché è capace di infliggere a 53 No TAV più anni di galera degli autori del disastro del Vaillant, ben 130 anni in più. Oltre alle condanne sono state inflitte a vario titolo risarcimenti provvisionali e spese processuali per cifre enormi. Nel secondo grado le condanne sono scese a 38, con la Corte d'Appello che ha ritenuto importante ribadire nella sentenza che virgolettato, il comportamento delle forze di polizia è stato pacato, misurato e in linea con le direttive contenute nei provvedimenti dei vertici degli uffici e degli ordini dati sul campo, anche quando i fatti documentati dimostrano che non è proprio andata così. Si veda l'operazione Hunter o i 4.357 lacrimogeni lanciati contro di noi solo il 3 luglio 2011. Ora si arriva alla sentenza definitiva e le condanne potranno diventare esecutive, a meno che la Corte non accolga, anche in parte, i numerosi ricorsi che potrebbero annullare parte o tutta la sentenza e rinviare gli atti per un nuovo processo, così come le provvisionali e i risarcimenti, che sono circa 145.000 euro, le provvisionali a titolo di parziale risarcimento delle diverse parti civili, tra cui TELT, sindacati di polizia e ministeri, e 250.000 di spese legali, parcelle degli avvocati di parte civile. Per questo non vogliamo far mancare la nostra solidarietà a tutti e tutte, perché ognuno di noi poteva essere imputato in questo processo, perché in quelle giornate c'eravamo tutti, con il corpo e con il cuore. Sono giornate impresse nella nostra storia, collettiva e di popolo, e non troverà mai la giusta verità in un'aula di tribunale, perché ci siamo abituati, ma mai rassegnati, a vedere riscritti i fatti che ci riguardano secondo la penna e il codice penale di chi, in qualche modo, si è sempre schierato dalla parte dell'opera e del sistema TAV. Abbiamo sempre avuto ragione e anche oggi i fatti lo dimostrano, ma siamo sempre stati trattati come casi penali da chi ha molteplici interessi nella costruzione della linea e nella sconfitta di un movimento popolare capace di scrivere la storia di questo paese, senza paura, con la propria lotta e senza chinare mai la testa. Nemmeno quando hanno provato a piegarci con gli arresti, con centinaia di processi, centinaia di migliaia di euro di risarcimenti e capi di imputazione sempre più duri, fino ad arrivare alle imputazioni per terrorismo. La magistratura è stata un grimaldello della politica, che, non avendo veri strumenti e argomenti per contrastarci, ha delegato tutto al piano penale e repressivo per piegarci e spaventarci, ma non ha mai ottenuto l'effetto desiderato. Siamo ancora qui, con lo stesso entusiasmo di un tempo, fieri delle nostre battaglie e sempre più convinti e documentati delle nostre ragioni. Abbiamo imparato a camminare insieme e non lasciare indietro nessuno, in nessuna occasione, e per questo anche l'11 aprile vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai NoTav imputati, con iniziative in valle e a Roma, davanti alla Corte di Cassazione, dove verrà letta la sentenza. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti e tutte a costruire due appuntamenti, rilanciando anche un'assemblea popolare per venerdì 13 aprile al Pala NoTav di Bussoleno. Avanti NoTav, firma del, appunto, del movimento NoTav. E questo, insomma, era il comunicato d'indizione di queste giornate di solidarietà e di lotta per, appunto, la sentenza in Cassazione che ci sarà l'11 aprile. E allora, il 27 giugno 2011, è già passato qualche anno, la libera Repubblica della Maddalena, territorio liberato dalla resistenza NoTav, venne sgomberato dalle truppe di Stato. Una giornata di scontri intensi, e il successivo 3 luglio migliaia di NoTav tentarono di rioccupare quello che poi è diventato, che diventò da quei giorni, il fortino della Maddalena, presidiato dai militari, che tuttora resta, diciamo, in piedi, sempre presidiato dalle forze dell'ordine, dagli alpini, insomma, una parte di territorio della Val di Susa occupato militarmente. E iniziamo, poi andiamo avanti, anzi, in questo speciale sulla lotta NoTav, sul processo di Cassazione per i fatti del 3 luglio e del 27 giugno 2011, raccontando quelle giornate per chi c'era, per chi invece magari ancora non seguiva la lotta NoTav o non si ricorda quanto accaduto, e lo facciamo con un monologo teatrale che abbiamo trovato sul web e che parla proprio di quei giorni, racconta quelle giornate attraverso le voci delle persone che hanno partecipato ai processi. Quindi ci possiamo ascoltare un brano musicale e poi ascoltiamo questo monologo, quel 3 luglio NoTav. Cominciare a raccontare da qualche parte, io comincerei dalla fine, posso? Ah, dice che sarebbe meglio dall'inizio. Sì, signore, ma è che l'inizio coincide con la fine di questa canzone, che poi in realtà è una poesia, sì, di Italo Calvino. Poi l'hanno fatta a canzone, bella, no? Finisce e dice: oltre il fuoco comincia l'amore. Appunto, sta all'inizio e alla fine. Questa canzone parlerebbe, secondo me, di un vecchio che passeggia, no, con questa ragazza, una ragazza color dell'aurora. E sa perché color dell'aurora? Sì, perché ha le guance rosa, sì, ma quella è un'evidenza, una banalità. No, per carità, non voglio banalizzare Sua Eccellenza. Madonna, ma si chiamano come i vescovi? E mica ci avevo mai fatto caso. Sì, scusi, dicevo l'aurora. Penso a questa aurora che è sia l'inizio che la fine. La fine della notte e l'inizio di un giorno nuovo, migliore di ieri. Una cosa giovane, insomma, una cosa viva. E io vorrei cominciare proprio da qui. Sì, signore, perché io quell'aurora lì l'ho vista. Tu tutte le volte che sono salita in questa valle, tra queste strade, questi sentieri, tra i problemi, in mezzo a questo assedio muto, invadente, petulante, io vedo l'aurora su queste facce. Riverbera con i suoi colori maestosi dentro a queste voci, in questi occhi, nelle discussioni. E certe volte l'aurora sorprende, come una notte che esplode all'improvviso, che finisce in controtempo, prima del previsto, con una forza che non ti saresti aspettato. Bisogna essere pronti, perché è una che genera quelle che verranno. Saperla riconoscere, Signore. Signor giudice, io quel giorno c'ero, è stata l'aurora e l'ho riconosciuta, l'ha fatta questa valle, anche se i gas mi mandavano gli occhi a fuoco e la gola si chiudeva e ti faceva soffocare, io l'ho sentita. Sì, m'ha fatto anche paura, ma in un balzo ci siamo spinti oltre il ponte. È una canzone di 100 anni fa, ma pare una poesia di oggi. Corri, abbassati, dai, balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Eh già, voi pensate che sia matta, ma vede, signor giudice, noi da quello si comincia, dall'amore. Ma quando lo sentiamo violato, umiliato, violentato, allora reagiamo, perché il danno è fatto. Era il 27 giugno 2011. La voce trova conferma. Tutto è come previsto. Iniziamo a scendere. Nel giro di pochi minuti un po' di persone si raggruppano sulla prima barricata. È ancora buio. Inizia l'attesa. Giornalisti, polizia e ruspe accompagnano nostro malgrado l'arrivo del giorno. L'attesa non ha preoccupato molti. Adesso, però, lo scenario è incerto. Si avvicinano, iniziano i lacrimogeni, sono tanti, fanno piangere e vomitare, sono nell'erba alta, non si trovano, il rumore della barricata che cade supera quello dello scoppio dei lacrimogeni, la ruspa avanza, si sale, le altre barricate ci danno giusto il tempo di risalire il sentiero, un attimo di tregua, alcuni minuti, ancora lacrimogeni, botti, si accende l'ultima barricata utile, si arriva al piazzale, l'aria è pesante, non si respira, iniziano a volare pietre, è un gran caos, tutto è molto rapido, si iniziano a vedere fila di caschi blu avanzare, sono un unico blocco, gli elicotteri si avvicinano, spiano, minacciano, poi ancora lacrimogeni, tanti, una sassaiola di lacrimogeni e la nostra contro la loro. Nel bosco intorno alla Maddalena c'era una folla come non s'era vista mai. Da un certo punto in poi non si retrocede più e lo si difende. Un mucchio di pietre, sassi, sassi, tanti sassi, gli piovono contro. Vedo gli occhi infuocati di chi non ha la maschera, che si piega a terra e non riesce a respirare. Schivamo i candelotti che ci sparano addosso e quando davanti si para il bulldozer, allora la rabbia aumenta. Difendiamo la posizione finché qualcuno dal bosco ci grida «Basta, ora basta!». Nelle retrovie non c'è più nessuno e davanti a noi... E davanti a noi nessuno che prova ad avanzare. La truppa blu torna indietro. E noi abbiamo vinto. Non saprei dire cosa, ma qualcosa esulta dentro. E la paura, almeno quella sì, l'abbiamo vinta. Denti stretti, bestemmie, mormorii, qualcuno tossisce ancora, il bosco è il nostro alleato. Torniamo verso la Ramà. Ci si divide l'acqua, i limoni, ci si aiuta a stare saldi sui sentieri e si fa il giro lungo per non vedere l'inizio dell'esilio. Si mormora, si bestemmia e ci si dice «Domenica prossima ce la riprendiamo la Maddalena». A che non manca. Per più di un mese siamo state lì, quando si poteva, come si poteva, a cucinare, a mangiare, a ragionare. Non c'è stato il tempo di annoiarsi né di sentirsi soli, mai. La musica c'era, e c'erano le canzoni, e c'erano i bambini e i vecchi, e si conosceva. Chi sapeva metteva in comune, e chi non sapeva imparava. Abbiamo imparato ad imparare, per l'ennesima volta. Ognuno aveva il suo posto lì. È stata una storia come non se ne vedeva dai tempi dei partigiani. È stata una storia di partigiani di oggi. Poi la notte è scesa e ci è servita a prepararci, ad organizzarci. La prossima data la fissiamo noi, 3 luglio. E il tempo che farà, non ce lo possono dire le previsioni. Questa volta il tempo lo facciamo noi. Per una settimana andavi in farmacia e non trovavi un po' di Malox manco su raccomandazione del vescovo, e le maschere antigas manco ci fosse passato il pifferaio magico in versione black block, manco mezzo. Un vecchio amico di queste parti me ne tira fuori una della DDR. Guarda che come le facevano lì, non se ne trovano mica più, sai, le buona. Ma che penso, con questa mi gasso da sola? Ci stanno stirpi di acari sovietici là dentro. Ma chi li sbaraglia quelli? Buona giusto per tirargliela. Da un ferramenta ce ne regalano 15. Quanta gioia, signor giudice, quel giorno. Gioia, quanti eravamo! Vedere tutta quella gente arrivare qui, e non solo dai vari paesi della valle. Gente di Napoli, Roma, Milano, Trento, Torino, addirittura qualcuno dal Molise. E che stupore, signor giudice, scoprire d'un tratto che esiste il Molise. Faceva caldo, ci raccogliamo a Exil. Oggi fa bel tempo, ma promette pioggia, una pioggia di rabbia, perché tutta dentro non la possiamo più tenere, e perché la paura è rimasta intossicata da quei lacrimogeni di una settimana fa. Ve l'abbiamo lasciata lì, ed oggi non è a noi che farà compagnia. La colpa e la paura le abbiamo lasciate tutte a voi. Siamo pronti. Signor giudice, capisco, è vero, è stata una giornata difficile, gente massacrata, torturata, tenuta come bestie là dentro. Quanti arresti ci sono stati? A un ragazzo gli hanno pure pisciato addosso, e quello che hanno fatto a Marta. Ah, come? Non è questo che vuole sapere? Scusa, ma su cosa vorreste fare giustizia, quindi? È stata una battaglia che è durata ore, in cui ci siamo giocati... No. Di cosa vuole sapere allora? Io potrei testimoniare dei lacrimogeni sparati ad altezza uomo. Centrali quei due dai, tiraglielo dritto, lo vedi il bastardo lì sotto? Vedi se riesci a centrarlo quando esce, o dei pestaggi. Io, se chiudo gli occhi e ripenso a quella giornata, sento ancora le botte in testa e il sapore di sangue che dal naso scende giù fino alla gola. Vedo ancora i volti dei poliziotti coperti da caschi e bandane che si avvicinano alla barella e mi bisbigliano: ti ammazziamo. Ad un palmo dall'orecchio mi vengono ancora i conati di vomito al pensiero delle scatarrate e degli sputi che si mescolavano col sangue sul mio viso. Sento ancora le ossa che si spezzano mentre sono rannicchiato a terra. Ricordo bene anche il momento in cui ho pensato: cazzo, mi stanno ammazzando davvero. E la violenza con cui si sono presi la nostra libera Repubblica della Maddalena. Ah, non è assolutamente questo l'argomento per cui mi ha convocata. Non stiamo parlando della stessa cosa. Ma io questo so! Pensavo fosse su questo che volevate fare giustizia. Mi sembrerebbe normale buonsenso. Immagino lo veda lei stesso con i suoi occhi. I suoi occhi vedono secondo la legge. E lei quindi non vede con gli occhi suoi. Ma i suoi occhi filtrano la realtà secondo gli schemi azzurrini della legge, come i suoi occhiali azzurrini. E a me questo dispiace, perché allora non è con un uomo che parlo, ma con la legge, che si sa non ha cuore. Ebbene sia, legge di Stato contro legge di donne e di uomini, perché vede, il punto è proprio quello. Lei gli uomini e le donne non li vede più. L'amore in quegli occhiali lì non penetra, solo vedono nel grigio spesso di un codice senza vita, mortifero, che non sa nemmeno cosa sia l'aurora. Lei vuole sapere del carabiniere, di quello che è successo il 3 luglio al carabiniere, del carabiniere, lei vuole sapere del carabiniere. No, senta, io allora non ho capito. E tutto il resto non è di sua competenza. Eh già, l'esperienza di una valle da dietro quelle lenti non si può leggere. E non provi a scriverla la storia di queste donne e di questi uomini. Voi non la sapete scrivere, la parola resistenza. Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Ecco, e mo gliel'ho detto. So chi sono stati e gliel'ho detto. È al carabiniere a dargliele. Sono stati loro, Pinin e Sandokan. Oh sì, e c'avevano il passamontagna. Anche perché, che devi avere in montagna? Mica c'è gli occhiali per il mare. Vabbè che era il 3 luglio e il passamontagna, però un colpo d'aria, una cosa, un po' di previdenza. E uno, lo ammetto, c'aveva l'accento che non era di qui, ma quell'altro c'aveva chiaramente l'accento di Campobasso. E ora mi spiega perché del Molise non accusate nessuno? Ah, perché non eravate sicuri che esistesse. Vede, se lei fosse venuto in valle, ora saprebbe che esiste il Molise. E poi dice che non è un'esperienza che contribuisce alle coscienze. Però la verità è un'altra. Quel giorno ad averci il passamontagna eravamo tanti, anzi tutti, ed eravamo tutti Sandokan e Pinin, 50 e 50, maschi Pinin e femmine Sandokan. Però a me così non sta bene. Lei vuole fare una giustizia un po' ciecata. Lei vorrebbe dimenticare troppe cose. L'esperienza, la condivisione, quello che è stata la nostra, e dico nostra, libera Repubblica della Maddalena, che non è finita. Non è mai finita. Lei vuole dimenticare i gas, la paura, la rabbia. Vuole dimenticare la nostra resistenza, i caduti, perché signor giudice, noi in questa guerra che è da 20 anni che va avanti contiamo anche i caduti, sole, baleno. E se il 3 luglio è stato quel che è stato è per questo, perché noi la nostra storia la scriviamo secondo un'altra legge, umana, ancestrale e viva. Ebbene, se il 3 luglio ribaltammo le forze in battaglia, oggi riscriviamo la legge. E secondo questa legge del 3 luglio, comunico a vostra eccellenza, a coloro che vorrebbero relegare 20 anni di lotta, 20 anni delle nostre vite in un'aula di tribunale, in una o 100 sentenze che secondo i nostri cuori, le nostre spinte, la nostra forza e la nostra dignità, che quel che rimane di noi di quel giorno è quanto segue. La giuria popolare, che ha vissuto quel giorno e che l'ha reso vivo, storico e infinito, dichiara che è stato un grande autogol delle forze dell'ordine. Hanno fatto diventare agguerrita mia moglie. È stata sopravvivenza, energia. Paura ne ho avuta tanta, ho respirato gas, ho ricevuto insulti, ho visto i feriti. Non ci sono abituato, ma mi sono sentito subito parte di qualcosa di incredibile. E che vuole? Il popolo si è unito contro lo Stato, i cattivi, i criminali, il popolo si ribella. Nella mia memoria si intrecciano gas, pietre, massi tirati giù dalla montagna. Io prima del 3 luglio mi spaventavo anche quando i carabinieri ci fermavano in macchina. Adesso ci siamo così abituati che non mi fanno più paura nemmeno casco e scudi. Merde, passi, caldo, gente tanta, viadotto. E chi se la scorda, quanta gente. Abbiamo dovuto faticare tantissimo per incidere sul cantiere. Abbiamo capito cosa sono le forze dell'ordine. È stata la prima giornata di vera lotta. Mai avevo visto scontri così da vicino, molto forte. Ero arrabbiata, confusa e avevo paura, e i ragazzi erano con me. Lacrimogeni, la prima volta che prendevo dei gas, un altro mondo. Gioia, quando abbiamo visto tutta quella gente arrivare da diverse parti d'Italia, mi sono commossa. E mo, signor giudice, lo vede? Le si sono incrinati gli occhiali. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire. Che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, dimmi la verità, la verità, e forse capirai, capirai, perché la verità tu non l'hai detta mai. Sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Torniamo in studio a Silenzio Assordante su Radio Onda Rossa. Ci siamo ascoltati un monologo teatrale sulle giornate del 27 giugno e 3 luglio 2011 in Val di Susa. Era un modo per raccontare quello che era accaduto in quei giorni, e secondo mio parere ci riusciva molto efficacemente a cogliere l'atmosfera di quelle giornate. Questo monologo teatrale lo stiamo facendo perché oggi parleremo di Val di Susa, in particolare in occasione del processo di Cassazione, proprio per quei fatti del 3 luglio 2011. Questo speciale prosegue con un collegamento che sarà con una delle imputate che saranno al banco degli imputati appunto il giorno mercoledì prossimo 11 aprile al palazzaccio della Cassazione. Quindi ci fermiamo per un brano musicale e poi torniamo in studio con un collegamento con questa compagna imputata. شايف روحي البس نظارات ركز معاي بلشيك معلومات اكتر من المخابرات مشي عشان ما حبيتهم خدوا الموضوع محاضرات انت قرر يا بتبيع روحك بتراب المصاري يا بتصير مستقل وبتفوت انتحاري ما تخلي حدا ياخد عنك اي قرار خدها قاعد البيت يساعدك فايد فيك استثمار وهو بيقرر يا للشورى يا للدولار فخذ القرار ما تكونش حمار هذا المثل يا مصار امسي تجاري يا مطار ولا مش قصدي من المطار فاحسن لك ضل بعيد عن هالاضرار والسقرات تصير نجم انا حكون الشمس اقرب للناس وانت قفص مكتوب عليه ممنوع اللم عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرن وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرن وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار محتار لانه اذا باخد هذا القرار كل حياتي الماشي عالتاني بتصير اطار انا اللي بقدر وما حد بقرر عني ما بتقولي كيف اكتب كلماتي وما بتقولي كيف اغني اخد قرار طب ودع التاني في هالحياة ما حد بعطيك فرصة تانية قرارات يمين الشمال شمال يمين بكل القرارات صرنا معميين فيش اشي مأكد ممكن كل حياتك تنتي بثانية زي السيجارة لتأكد خد قرار واعرف انك هلا عم تلعب قمار عم تلعب في النار ممكن تصير حياتك اخت مليوكي او ممكن تصير دمار وبعد ما تصير ما تقول يا ريت ما صار ما تقول يا ريت ما تقول يا ريت ما صار يا ريت ما صار عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرن وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرن وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار ما تقوليش يلي صار كل شي له سبب وانت خد قرار انهيار كتير عصبي وانت بتستكشف النتائج فخذ نفس كبير واسمع منيح لهالمناهج ما تاخذ كلمة ورا كلمة كل وحدة بتبني الماضي والحاضر عشان في المستقبل نعمل حسن اعرف لما تقطع الحاجز مش مجال تكون فاشل اعمل قرارك وعنه تدافع ما تكون ذاكر تعطيك افكار زي المدافع وانت قاعد مش نافع E torniamo subito in diretta, silenzio assordante, continuiamo questo speciale sulla lotta No TAV e come annunciato precedentemente andiamo avanti con un collegamento con una compagna imputata per le giornate di lotta del 3 luglio 2011. Intanto sentiamo se ci sente. Pronto? Ciao, sì vi sento. Ciao, buona giornata. Ciao. Buongiorno. Bene, ciao. Cominciamo allora subito, tu sei una delle imputate purtroppo che saranno al banco degli imputati nel processo di Cassazione la settimana prossima e quindi ti chiederei come prima cosa di insomma raccontarci un po' cosa succede appunto mercoledì prossimo alla Cassazione di Roma, dacci un po' di dati in merito al processo, cosa accadrà quel giorno. Sì, in realtà mercoledì arriveremo in Cassazione in molti meno rispetto a quelli che siamo partiti, perché questo è un lungo percorso, come penso che avrete già detto nel corso della trasmissione, che è iniziato nel 2012 con gli arresti che ci sono stati il 26 gennaio, quindi il 26 gennaio sono entrati nelle case di circa di decine e decine di persone, ci sono stati 26 arresti che hanno tenuto parecchie persone in carcere fino a 12 mesi di reclusione. Dopodiché il processo è partito in primo grado con l'unione di queste persone che stavano in carcere e di altre raggiunte successivamente dagli arresti nel corso dell'estate 2012. Il processo di primo grado è partito a febbraio del 2013 e inizialmente eravamo in 53 e per reati svariati, però per lo più siamo tutti accomunati dai reati di lesioni, violenza, danneggiamento, tutto aggravato in concorso, tutto aggravato da travisamento, lancio di oggetti, eccetera, eccetera. E quando si è concluso il primo grado, dopo circa 2 anni di processo, di udienze, scusate, siamo arrivati a essere condannati in 45, 8 assoluzioni e insomma condanne molto pesanti, perché si è arrivati a totale, diciamo, gli anni di condanna in totale sono stati circa 142 anni per tutti quanti, con pene altissime, anche oltre ai 6 anni, molte delle quali molti di noi sono stati condannati a pene più alte rispetto a quello che erano state le richieste di condanna della procura, che è stata una cosa abbastanza particolare di tutto questo iter. E poi nulla, niente, poi siamo arrivati all'appello, l'appello che è iniziato nell'ottobre del 2016, solo però per 42 di noi, quindi siamo stati ulteriormente sfoltiti, perché per 5 compagni ci sono stati dei difetti di notifica nel momento in cui dovevano essere appunto notificata la prima data dell'udienza d'appello, e quindi anziché rinviarla per tutti per questioni di economicità sì, processuale, così ha detto la giudice, insomma si è deciso di procedere per le persone per le quali era stata fatta correttamente la notifica e di stralciare gli altri. E quindi siamo arrivati alla sentenza di appello, che è avvenuta nel novembre successivo, siamo arrivati in 38. Mentre gli altri 5 compagni che sono stati stralciati hanno poi avuto un procedimento separato per l'appello e hanno concluso anche il loro ITR di secondo grado a dicembre appena passato, insomma dicembre 2017, e anche per loro insomma le condanne hanno seguito più o meno un andamento uguale al nostro. Ciò che è cambiato in realtà è che rispetto alle condanne di primo grado, che come vi dicevo erano parecchio alte e superavano appunto le richieste fatte dalla procura, in secondo grado le condanne sono state un attimo smussate, molte di quelle che erano di parecchio superiori anche ai 3 anni sono state abbassate, e per molti di noi le condanne si aggirano intorno ai 2-3 anni al momento. Quindi vedremo un po' come andrà mercoledì, incrociamo le dita e poi vediamo un po' che cosa ci aspetta. C'è qualcuno quindi che, diciamo, se venissero confermate le sentenze di secondo grado, i compagni rischierebbero, diciamo, qualcuno di finire in galera, qualcuno ai domiciliari, mi confermi questo? Questo bisognerà capirlo, perché in realtà per una sentenza della Corte di Cassazione molto molto recente il livello è stato alzato dai 4 anni, quindi teoricamente nessuno di noi, non solo teoricamente, nessuno di noi rischia il carcere, insomma il carcere immediato il giorno 11 aprile, ok, per intenderci, perché appunto i residui di pena che noi arriviamo ad avere, anche chi è stato condannato a più di 4 anni, perché la condanna più alta in secondo grado è di 4 anni e 6 mesi, ma chi ha condanne così alte, come vi dicevo all'inizio, ha già scontato, nel momento in cui è stato arrestato il 26 gennaio 2012, ha già scontato parecchi mesi da lì, e quindi arriva con un residuo di pena inferiore ai 4 anni. Dunque mercoledì nessuno dovrebbe rischiare di andare, di essere tradotto immediatamente in carcere. Bisognerà poi vedere come proseguirà la cosa, nel senso che noi avremo poi, nel momento in cui ci notificheranno l'ordine di esecuzione, quando sarà della pena, avremo 30 giorni per chiedere pene alternative, e lì bisognerà vedere poi con che tempi il Tribunale di Sorveglianza di Torino, perché lì ritorneremo a essere di competenza di Torino, con che tempi a Torino ci fisseranno un'udienza al Tribunale di Sorveglianza per valutare la nostra richiesta di pena alternativa al carcere. Quindi su questo ci rimetteremo a tempi futuri, ecco, perché adesso non è nulla di prevedibile. Senti, ma ti andrebbe di fare una sorta di bilancio sull'andamento di questi anni di processi, di lotte, diciamo, processuali? C'è qualcosa che ti va di aggiungere? Ma io credo in realtà che, seppur sia stata una grossa sfiga per tutte e tutti noi che ci siamo trovati in mezzo a questa cosa, e non solo, perché ha coinvolto tantissimi solidali, è stato molto forte il fatto di vedere che, pur provenendo, essendo moltissimi, provenendo da luoghi diversi, per lo più non conoscendoci, siamo riusciti, uniti dalla volontà di comunque portare avanti la lotta per cui eravamo e siamo tuttora incriminati, diciamo così, abbiamo stretto dei legami di solidarietà e di complicità penso importanti, riuscendo a non spezzarci mai nel corso del processo, che credo sia una cosa da non dare per scontata, per lo più quando si parla di numeri così grandi e di un'eterogeneità così vasta, appunto anche a livello proprio di estrazione politica, se così possiamo dire. Quindi da questo punto di vista qua secondo me è andata molto bene, e grazie veramente da parte mia, penso anche da parte di molti altri, per la solidarietà dimostrata nel corso di tutto l'iter processuale, soprattutto nella fase di primo grado, in cui ancora appunto insomma eravamo freschi di questa cosa. Praticamente nel corso di tutte le udienze ci sono state mobilitazioni, e vi parlo di un'udienza, il ritmo di circa un'udienza a settimana, quindi abbastanza sostenuto, sempre iniziative di solidarietà, sempre la partecipazione di un sacco di solidali, e molto spesso nel momento in cui, ad esempio, una delle cose per cui noi imputati ci siamo battuti molto era il trasferimento dall'aula bunker, perché non l'ho detto all'inizio, però tutto il primo grado di giudizio si è svolto all'interno dell'aula bunker del carcere delle Vallette, che era inutilizzata da oltre 20 anni ed è stata riaperta per questa fantastica occasione. Uno dei motivi che è stato addotto per giustificare questa scelta qui da parte del tribunale è stato che al tribunale di Torino c'erano troppe cose da fare, insomma troppi processi in corso, non c'era spazio per noi. Era una chiarissima supercazzola, questo avevamo capito fin dall'inizio, però insomma abbiamo cercato di tenere l'attenzione alta anche sulla scelta appunto di criminalizzare così tanto questo processo, e spesso abbiamo anche letto comunicati, interrotto le udienze per protestare contro questa cosa qui, e c'è stata sempre anche una grossa solidarietà da parte di tutti i partecipanti alle udienze. Quindi direi che da questo punto di vista qui è andata molto bene, e si è sempre cercato poi, peraltro credo che sia un aspetto molto importante, di non scindere mai quello che si va a pagare per delle lotte dalle lotte che continuano ad andare avanti, quindi si è sempre cercato poi di tenere i due piani uniti, no? E quindi spesso appunto poi magari si usciva dall'aula e si andava in valle a continuare a protestare pure lì. Quindi io direi che sono molto contenta degli aspetti positivi di questa sfiga che ci ha unito, questo potrei dire. Tra l'altro, insomma, visto anche se sono passati diversi anni, che poi per la settimana prossima ci sono previste diverse iniziative, quelle che sono riuscito a documentare, quindi quella di Roma, della Valle, ma anche di Bologna, di Pisa, forse ce ne saranno anche altre che non sono riuscito a reperire, quindi insomma diciamo che un po' di mobilitazione sì. Ci sarà la settimana prossima. Sì, esatto, anche perché appunto come vi dicevo prima, poi noi siamo in 38 e siamo veramente, veniamo un po' dappertutto, quindi c'è anche questo aspetto qui che poi ha caratterizzato per molto tempo anche la lotta notabile, il fatto che non fosse una lotta centrata semplicemente sul territorio della Val Susa, ma diffusa abbastanza su tutti i territori. Questa cosa qui, ora che abbiamo qualcosa da pagare, torna a nostro vantaggio, nel senso che la solidarietà si allarga, non saranno iniziative che saranno solo nei due luoghi centrali di quella giornata, che saranno Roma perché c'è la Cassazione e la Valle, anche appunto come dicevi bene tu, iniziative sparse in diverse città, e speriamo che siano anche partecipate, ecco, perché effettivamente sono passati molti anni, io mi rendo conto che a volte riparlare di questa cosa adesso anche con compagni e compagni più giovani è un po' come riparlare di un'esperienza nuova, perché tanta gente effettivamente non c'era, e sono comunque passati 7 anni, quindi insomma. Bene, senti, io ti lascio concludere se ti va di aggiungere qualcosa. No, in realtà penso più o meno questo sia tutto, va bene così, credo. Bene, sì, benissimo, noi ti qui dallo studio ti salutiamo, un abbraccio solidale a te e ovviamente anche per tutti gli altri compagni che saranno sotto processo. Va bene, ok, ci vediamo nelle lotte, a presto. Ok, ciao, buona serata, ciao. Ebbene, insomma, questo collegamento con una compagna, insomma, imputata, che rischia, insomma, magari non di finire in prigione, però, insomma, un iter processuale tra domiciliari, arresti e, diciamo, residui di pena da scontare magari ai domiciliari, insomma, che è abbastanza comunque pesante, anche se ridimensionato rispetto, insomma, alla durissima condanna di primo grado, però abbiamo visto, insomma, poi anche la voglia poi di lottare, di anche insomma l'orgoglio di aver partecipato a quelle giornate, tutto sommato, insomma, a volte quando vale la pena poi si è anche disposti a pagare le conseguenze di quello che si è fatto, quindi insomma in uno spirito positivo, speriamo poi di vederlo in tutti quelli che si muoveranno in questi giorni per portare solidarietà ai compagni imputati che appunto non sono stati dimenticati, come poi spesso accade dopo anni dai fatti, insomma restano ancora nei cuori di molti che hanno partecipato a quelle giornate. E quindi andiamo avanti, abbiamo insomma detto di questo presidio della settimana prossima alla Cassazione di Roma, abbiamo ascoltato una ricostruzione teatrale, un monologo sulle giornate del 3 luglio 2011, abbiamo sentito un'imputata di quelle appunto che verranno processate, andranno in Cassazione per quei fatti, e andiamo a concludere questa parte sulla Valle di Susa facendo un collegamento che ci racconta un po' la situazione attuale in valle, in particolare rispetto al proseguimento dell'opera di costruzione del tunnel di base che collega l'Italia alla Francia, dell'alta velocità Torino-Lione, opera che forse poi non so, magari se ne parla di meno ultimamente, è tutt'altro che conclusa. Perché i lavori richiederanno ancora molti molti anni e quindi la lotta va avanti e la situazione non è assolutamente, diciamo, determinata, nel senso che è una situazione che possiamo ritenere ancora aperta, insomma, anche se poi nelle lotte ci sono fasi più o meno accese, però va bene anche ricordare cosa sta accadendo e quali prospettive ci sono in Valle di Susa. Ci ascoltiamo un pezzo musicale, poi torniamo in collegamento con un compagno di Radio Notav, quindi che viene da Radio Blackout, che è la radio che ha sede a la trasmissione che ha sede a Bussoleno, che diciamo si occupa prevalentemente di lotta Notav e del movimento Notav, e ce l'ascoltiamo tra poco dopo un pezzo musicale. Best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. can find nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn, if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say. Yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è sempre Silenzio Assordante, continuiamo con l'approfondimento, il lungo approfondimento che stiamo facendo oggi sulla lotta No Tav, e come preannunciato in precedenza lo facciamo con un compagno di Radio No Tav, che con lui insomma volevamo proseguire la chiacchierata che abbiamo iniziato andando un po' più sull'attualità. Quindi innanzitutto ti do il benvenuto a Silenzio Assordante, ciao. Ciao a tutte, tutti alla redazione, ascoltatori, ascoltatrici, un saluto. Grande, grazie. Ciao. Allora, praticamente noi con te volevamo, appunto, come annunciavo, fare un po' un approfondimento su qual è lo stato dell'arte lì in valle, e soprattutto, insomma, con un focus su qual è la situazione dei lavori lì in Val di Susa, perché appunto è anche un tema di cui ultimamente si parla sempre di meno. Beh, sì, io vi faccio un aggiornamento, teniamo sempre presente che in 5 anni ci sono stati 5 varianti al progetto iniziale, adesso siamo a una variante di progetto approvata appunto dal CIPE, dal Ministero, finanziata, quindi dovrebbe partire. Ovviamente in corsa sarà facile che cambino ancora altre cose in base alle loro esigenze, diciamo, sia di realizzazione, sia di finanziamento, sia di ordine pubblico, però bene o male si è delineato adesso quale sarà lo scenario dopo varie boutade che erano state tirate fuori. Partiamo dal presupposto che la prosecuzione dei lavori, o meglio l'inizio dei lavori dello scavo del tunnel principale, perché come sappiamo fino adesso è stato realizzato solo il cunicolo esplorativo, chiamato così perché dovrebbe dare delle indicazioni sulle tipologie di rocce, cioè dovrebbe essere un'esplorazione tecnica, poi in verità sappiamo benissimo che è un modo per aver iniziato comunque, anche se collateralmente, l'opera. Quindi adesso si andrebbe a scavare il tunnel principale che appunto bisognava capire da dove iniziare a scavare. Naturalmente, diciamo, come prassi, il tunnel si inizia a scavare dall'inizio e quindi sarebbe dovuto scavare a San Giuliano di Susa, cioè nell'ultima parte di piana della Val Susa, proprio prima che la valle si stringa e poi appunto inizi il tunnel sotto la montagna. Però cosa succede? Che ovviamente hanno fatto delle valutazioni politiche, militari, decidendo che forse non era l'idea migliore quella di iniziare a espropriare case a Susa, di espropriare terreni in bassa valle, di mettere in piedi un cantiere comunque enorme per lo scavo del tunnel principale. Se qualcuno ha visto, sicuramente qualcuno ha visto il tunnel della Clarea, e in confronto quello è niente, quindi stiamo parlando di un'opera ancora molto molto più grande. Quindi qual è stata la valutazione? I tecnici del ministero hanno detto: bene, valutiamo se ci sono delle ipotesi alternative. E a chi lo facciamo valutare? L'hanno fatto valutare a un consorzio, tra gli altri, l'hanno fatto valutare a un consorzio interuniversitario di studi per la logistica, che si chiama NITEL, poi magari ne parleremo un pochino perché la cosa è interessante, che ha valutato varie ipotesi: fare un cantiere da Chiomonte, farlo in altro luogo, farlo a Susa, dividerlo, come fare, e ha fatto una serie di statistiche, una serie di valutazioni sui rischi e le opportunità che presentava ogni cantiere, e in fin dei conti hanno deciso di fare una cosa che non ha nessun senso tecnico, ma è diciamo una garanzia per loro dal punto di vista del controllo militare, quello di iniziare a scavare il tunnel al contrario, partendo da Chiomonte e scendendo verso Susa in discesa, quindi scavando, dovendo asportare la roccia e i materiali di scavo al contrario in salita, facendo una cosa che non ha appunto nessun senso, se non quello di non iniziare i lavori nella media bassa valle, dove il movimento è più forte, dove il tutto è più visibile, ok? Quindi cosa hanno deciso? Bene, preteniamo il cantiere di Chiomonte, che come sappiamo è un cantiere molto nascosto, dentro nella Dora, vicino ai boschi, fuori dal centro abitato, fuori dai passaggi, quindi dove anche se c'è scontro con le forze dell'ordine che difendono il cantiere, uno scontro che non viene visibilizzato, che facilmente viene contenuto almeno nel suo effetto, diciamo, mediatico, comunque non viene visto, e dicono: bene, cominciamo da lì, scaviamo un secondo tunnel più grande, perché il tunnel di base avrà un 10 metri di diametro contro i 6, mi sembra, di quello attuale, scaviamo un secondo tunnel, facciamo qualche chilometro di scavi in più, buttiamo dentro le talpe da lì, le frese per scavare il tunnel da lì, da Chimonte e non da Susa, ce ne andiamo al contrario della montagna verso Susa, di modo da uscire fra 3 anni, dopo 3 anni dall'inizio degli scavi, a Susa con l'opera già iniziata, quindi un tassello in più per dire non si può tornare indietro, e sperano loro, lo dicono chiaramente, con il movimento Ottava ancora più come dire, più morigerato nei toni, se possiamo dire, sperando che la fase comunque di difficoltà del movimento continui, anzi si aggravi per l'età, perché è un movimento in parte anche anziano, per la repressione ovviamente, per tutta una serie di motivi. Questa è la loro strategia. Per fare questa cosa però devono capire dove farla, perché scavare da Chimonte sì, vabbè, si può, è un po' complicato, però non c'è spazio, e quindi tutto il materiale dove lo mettono, tutto il materiale che avrebbe dovuto essere posizionato per essere lavorato, smistato eccetera, nella piana di Susa non ci sta a Chimonte, e quindi devono trovare un altro posto, e lì ancora questo Nitel, questo che ha aiutato nel stabilire quale poteva essere l'ipotesi migliore: portarlo a Susa, portarlo a Salbeton, lasciarlo a Chimonte, metterlo tra Chimonte e Gravere. Ci sono state varie ipotesi di studio esecutivo, sono state sbagliate dal punto di vista appunto non tecnico, non ingegneristico, ma dal punto di vista della difesa. Quindi hanno stabilito in fin dei conti di fare un secondo cantiere a Saldeltrand, che è un paese nell'alta Val di Susa tra Chiemonte e Bardonecchia, vicino a Chiemonte comunque, dove lo smarino, il materiale scavato, dovrebbe essere portato via camion uscendo dal cantiere Clarea, dall'autostrada teoricamente, per arrivare appunto a Saldeltrand, dove c'è una piana sui lati della Dora, dove già è presente la lavorazione di materiale di cava e sabbie e cose del genere, dove appunto questo materiale potrebbe essere smistato, vagliato e riutilizzato per costruire i famosi conci, cioè le coperture ad agli archi che vanno poi a rivestire l'interno del tunnel, che verrebbero fatti con la sabbia ottenuta dagli scavi, meno quello che potrebbe essere l'amianto o le rocce contaminate o pericolose da trattare, che invece secondo loro verrebbero tombate nello stesso tunnel della Clarea che è stato già scavato, costruendo delle nicchie laterali e tombandolo lì nell'ultimo chilometro, senza farlo uscire dalla montagna, come se questo potesse essere una garanzia di appunto salubrità eccetera. Ma è un discorso poi lungo, ma si può intuitivamente comprendere. Quindi la prospettiva è questa: non prima del 2019 dovrebbe esserci questo tunnel che dovrebbe poi sbucare a San Giuliano di Susa, e quindi solo allora costruire, perché poi comunque andrà costruito, il cantiere in bassa valle. Nel frattempo di nuovo allargamento del cantiere di Chiemonte, che è già comunque un luogo che sentono abbastanza sicuro, abbastanza protetto, apertura di un nuovo scenario di cantiere con relativo apparato militare a Saldeltrand, e poi in futuro di nuovo Susa. Questa è più o meno la prospettiva. Ecco, la prima cosa che insomma che mi viene in mente, ma abbastanza evidente da quello che dici, innanzitutto sono i tempi biblici di tutta questa operazione, che comunque è un'operazione abbastanza importante, quindi comunque sicuramente questo da tenere in considerazione. Però come dicevi tu prima, se ti va un attimo di insomma, se abbiamo delle informazioni su questo Nitel o Mitel, non ho capito se è con la M o la N, che è appunto questo organo, una sorta di, dicevi, di appunto di apparato in cui partecipano, immagino, enti di ricerca, università eccetera, e insomma anche per capire quali sono state le diciamo le strategie decisionali intorno a questa cosa qua, perché mi sembra abbastanza evidente che la maggior parte delle decisioni più importanti sono state prese tenendo in diciamo in grandissima considerazione quello che è poi di fatto la protezione di fatto del dei cantieri nuovi o comunque delle nuove zone di lavoro dove che si vogliono impiantare, insomma. Quindi se ti va di fare un... Sì, guarda, sicuramente è un argomento di cui potremmo parlarne per ore, però per pietà degli ascoltatori cercheremo di fare un riassunto. Innanzitutto potete trovare benissimo il NITEL con la N, okay, sul web, ha un suo interfaccia, un suo sito pubblico NITEL.it, dove spiega bene che è un consorzio di 20 prestigiose università italiane che fanno ricerca scientifica, educazione e altri tipi di corsi, eccetera. Ci sono tutte le università a Roma, il campus biomedico, tra l'altro. Committenti sono RFI, Autostrade, SPA, ANAS, Poste, una branca di Leonardo, Tele Spazio si chiama, e insomma, però, tutti i ministeri, istruzione, economico, infrastrutture, finanza, interni, difesa, salute, chi più ne metta, ma quello potete andarvelo a vedere benissimo. Sullo studio in particolare che hanno fatto sulla Val di Susa, noi abbiamo scritto un piccolo pezzo, lo trovate sul sito di radionotav.info, cercate NITEL, sicurezza in cantiere, e lì trovate un piccolo focus su questa cosa che lo spiega abbastanza bene. La cosa che secondo me è importante per non essere, come spesso poi succede, troppo autoreferenziali, è che questo studio, al di là che interessante, può essere interessante leggerlo, secondo me segna un po' quello che è appunto una strategia da cui sono ripartiti. Io penso al TAP, anche se non lo conosco direttamente, sono partiti con una serie di indicazioni che sono proprio quelle che il NITEL dà per partire con i lavori, già con tutta una serie di prerogative, per esempio sicuramente quella della sicurezza. Infatti parla, adesso lo leggo così mi aiuta anche un po', stila una serie di raccomandazioni in questo documento sui nuovi cantieri in Val di Susa, che sono di interesse generale perché sono applicabili a qualsiasi cantiere. Innanzitutto dicono la cosa più importante è che qualsiasi cantiere si faccia sia subito chiamato sito di interesse strategico nazionale, in modo che le forze di polizia lì dentro possano operare con una particolare mano libera, diciamo, e possono avere una copertura giuridica all'uso sia dell'esercito in ambito civile sia alle leggi speciali. Dice anche per esempio che ci deve essere una doppia recinzione con un passaggio largo 6 metri per far passare i mezzi militari nei due sensi, che va messo un sistema idraulico antincendio in 50 metri con l'autonomia di funzionamento, tutta una serie di cose che posso anche tralasciare. Mi sembra importante dire che ci tengono a specificare che ogni cantiere deve avere una sua propria control room munita di collegamenti in fibra e tecnologia 4G, cioè con la tecnologia satellitare che la rende inattaccabile, indipendente dalle altre reti che possono essere eventualmente sabotate. E parla anche delle sicurezze che vanno installate su tutte le macchine d'opera che entrano e escono dal cantiere continuamente, con vari sistemi di riconoscimento, eccetera, e fa un topic proprio sul, scusate la parolaccia, ma loro la chiamano così, sui nastri trasportatori, perché ovviamente quando parliamo di scavi parliamo di spostamento di materiale, di rocce, di scavo, che la cosa migliore più pratica è portarle con un sistema di nastri trasportatori fissi. E su lì ci tengono a specificare che è un esempio, essendo un esempio di tecnologia che si oppone alla natura dei luoghi, sono sono un possibile punto di attacco molto, molto succoso, perché tra l'altro non mettono a rischio le persone, però possono creare dei danni molto, molto, molto gravi. Infatti leggo testualmente, dice: un'azione di sabotaggio appare molto efficace perché è relativamente semplice da mettere in atto, con effetti significativi sull'operatività del sistema dei nastri trasportatori. Bene, questo era sulla sicurezza. Da questa serie di indicazioni loro cosa fanno? Fanno uno studio praticamente statistico, nel nostro caso hanno fatto 12 casi di studio, prendendo in considerazione tutte le possibili combinazioni di alloggiamento delle varie operazioni, e fanno delle statistiche applicando proprio dei punteggi sulla tanto vabbè sui costi, sui tempi di realizzazione, ma soprattutto sui sistemi di protezione, che dividono in due tronconi importanti: la sensibilità e l'impatto. È una sembra un gioco di parole, cioè una cosa sottile di lana caprina, però per loro, guardando al sodo, cosa dicono? Bisogna guardare quanto un sito possa essere oggetto di azioni dolose per parte degli oppositori, però non solo guardano gli aspetti, cioè riguardo alle maestranze, alle macchine e alle perdite economiche, però fanno appunto questa valutazione, perché uno dice: un conto è vedere se un sito è sensibile, cioè quanto può essere attaccato, però un conto è anche vedere quanto questo attacco poi è significativo, per cui facendo una serie di differenziazioni tra sensibilità e impatto sono andati a decidere di fare il cantiere a Salbertran, pur sapendo che economicamente non ha molto senso, tecnicamente non ha molto senso e anche a livello di sensibilità non ha molto senso, perché è una zona si vuole anche abbastanza sensibile, però reputano che l'impatto totale anche di eventuali azioni sia di sabotaggio sia di altro tipo non sono così forti come fare un cantiere a Susa, dove per forza dovrebbe usare un nastro trasportatore, dove appunto ci potrebbero essere degli impatti di azione relativamente semplice ma molto importanti. E quindi da questo proprio lo scrivono in numeri, con statistiche percentuali, insomma è il modo di operare fin dei conti dello studio scientifico dell'Università della Statistica, però in base a queste cose vanno alla fine a identificare Salbertran come il miglior posto per fare il cantiere, quando sappiamo che è il posto meno sensato, perché sei sulla Dora, sei su una zona di esondazione, l'ultima esondazione importante è stata 50 anni fa, che comunque è una cosa, diciamo, non è poco, cioè è una come dire, una periodicità abbastanza elevata per il tipo di danni che potrebbero crearsi. Hanno dovuto derogare da tutte le leggi di costruzione vicino ai fiumi, la responsabilità si è dovuta prendere credo il prefetto, perché gli ingegneri non se lo prendevano. Sono in un luogo molto scomodo, devono andarci con i camion avanti e indietro, tra l'altro facendo dei giri assurdi che non sto a raccontarvi, però insomma potete trovarli nel caso. Però che cosa hanno identificato? Hanno detto: bene, se noi facciamo un cantiere lì, siamo in un paese dove il sindaco comunque è favorevole, un piccolo paese con poche persone, dove il grosso del flusso del traffico passa sull'autostrada, e quindi noi escludiamo dei problemi con la divisibilità di eventuali azioni, riconducendole tutte a comunque un contesto più piccolo. L'autostrada passa in galleria e in sopraelevata, perché sei tra i tunnel e la Dora, costruirebbero un cantiere, a differenza di San Giuliano di Susa, che è direttamente e solamente accessibile dall'autostrada, con un accesso unico, con un accesso dedicato, esattamente come quello di Chiomonte. Tutti questi piccoli particolari insieme delineano una serie di raccomandazioni senza le quali viene detto non si può fare un cantiere, non viene tutelato. La sicurezza del cantiere passa appunto da avere queste misure di sicurezza, questo tipo di accessibilità, questo tipo di collocazione e tutta un'altra serie di cose che non sto qui a specificare. Questo corpus, diciamo, di indicazioni è quello che possiamo trovare, che troviamo già nella costruzione di tutte le opere contestate, che sia il TAP che sia cos'altro, in altri luoghi d'Italia. Quell'esperienza lì allora è servita per stabilire la prassi nel fare qualsiasi altro cantiere da qui in avanti. Sei stato molto chiaro, insomma, io metterei l'accento soprattutto proprio su, hai fatto benissimo innanzitutto anche a fare il collegamento con la questione No Tap, che è una cosa di cui insomma ci occupiamo spesso anche da questa trasmissione, perché molte cose che dici mi proprio come dire, mi risuonano veramente tanto con poi gli stessi racconti che compagni e compagne da giù ci hanno fatto proprio nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, soprattutto mettere l'accento sulla proprio la consapevolezza di chi va a fare queste grandi opere, di quanto appunto siano innanzitutto dannose per l'ambiente, eccetera eccetera, questo è abbastanza chiaro e scontato, ma anche di quanto sia chiaro per loro di andarsi a scontrare comunque con un'opposizione che è data già quasi per scontata, proprio perché l'impatto evidentemente sulla vita di un determinato territorio è alto, e quindi cioè, si dà già per scontato questo, e quindi in base a questo poi ci si regola e si insomma si prova a mettere in piedi una gestione, un'organizzazione che vada poi a insomma a fare il solito calcolo, quello del costo minimo, no? Rispetto alle operazioni che poi vanno messe in campo. Ecco, su questo magari anche per andare in conclusione, rispetto a insomma all'attualità, cioè in valle adesso che clima si respira, qual è insomma il tipo di la situazione proprio militare e di controllo e di sicurezza che c'è già in valle adesso, e anche in prospettiva poi di questi lavori di cui ci hai parlato? Beh, sicuramente anche per smentire chi poteva pensare che non si potevano permettere un tipo di controllo militare da zona di guerra, o di sostenere delle spese per lunghi anni di quel tipo, bisogna dire che non hanno questo problema. Non credo che cioè ci hanno messo diversi anni a prendere le misure al movimento, ai singoli del movimento, strutturare una presenza delle forze dell'ordine, dei vari tipi di forze dell'ordine sul territorio, perché prima non era necessità. Quando hanno avuto necessità, con i tempi e la rigidità tipiche, diciamo, delle strutture militari, l'hanno fatto lentamente, però adesso che ce l'hanno non lo mollano di certo. Non si può dire che in questo momento la repressione e l'azione poliziesca sia altissima, però questo è più che altro dovuto al fatto che le azioni nei confronti del cantiere sono molte, molte meno rispetto a quelle di un tempo. Sì, perché potremmo parlarne e avere tante opinioni, però ovviamente c'è anche da dire che una specie di azione e reazione, quando avevano appena preso la Maddalena si saltava il cancello a pie pari, adesso ovviamente per dire entrare molto più difficile, proprio militarmente loro hanno portato molto avanti, quindi è più difficile fare queste cose. La repressione d'altra parte ha chiarito molto bene quali sono i termini massimi entro i quali il movimento può cercare di muoversi, dopodiché scatta una repressione piuttosto dura, sicuramente più dura che mai nel rispetto del movimento No Tap. Magari altri movimenti sociali ne avevano già come dire prova, però per gli abitanti della valle è stata una novità. Tutto questo ha fatto sì che adesso sia un momento anche tutto sommato tranquillo da entrambe le parti. Credo che tutti pensino che bisognerà aspettare e vedere cosa succede. Intanto bisognava che si delineasse il quadro, se sgomberavano nuove aree a Susa, se non le sgomberavano, se partivano con i cantieri a San Didero, a Bussoleno, come sembrava inizialmente, per fare spazio al cantiere a Susa, invece adesso il cantiere a Susa non lo fanno più, quindi quei lavori lì non hanno nessuna fretta di farli, quindi l'attenzione si sposta sull'Alta Valle che, ricordiamo, comunque è più tiepida nei confronti dell'opposizione al TAV, rispetto alla Bassa Valle, tutta una serie di cose che ha portato comunque a una situazione, possiamo dire, attendista in questo momento, che non mi voglio sbilanciare in troppe valutazioni. Sicuramente quando si muoveranno le cose vedremo, però sicuramente a Sabetan non sarà così semplice, perché mentre a San Giuliano devono sgomberare dei terreni, dovrebbero occupare dei terreni, sgomberare delle case di Notav, a Sabetan invece sono terreni che non vanno neanche espropriati, perché sono già in concessione a ditte che le hanno passate a Telt, insomma non c'è neanche questo problema qua, quindi sarà tutto molto più liscio, cioè partiranno con i lavori in maniera più liscia, quindi dovremo stare a vedere cosa succederà in quel momento. Per tornare alla tua domanda, sicuramente l'apparato militare c'è, nel momento in cui servirà lo ritireranno fuori, staremo a vedere dall'altra parte la tenuta a lungo tempo del movimento quale sarà, pensando che comunque un movimento che ha tenuto anni e anni non si scioglierà di certo come neve al sole, però effettivamente sono domande che non possono avere una risposta, ecco, questo lo vedremo, insomma. Certo, poi comunque insomma ovviamente tenere botta per tutti questi anni, ormai parliamo di 30 anni forse di più, di insomma di tarantelle, diciamo così, quindi chiaramente sicuramente gli alti e bassi sono proprio strutturali a un movimento del genere, però poi chiaramente anche poi riconfigurarsi, riadattarsi a tutte queste strategie messe in campo dalla controparte non è sicuramente insomma tra le imprese più facili, però sicuramente insomma ne parlavamo anche prima con un'altra compagna, il fatto, cioè tutto quello che si è mosso anche a livello di solidarietà eccetera, adesso ecco non è che negli ultimi anni insomma ci siamo dimenticati tutti e tutte della lotta notabile e anche insomma dell'importanza che ha avuto per tante persone, quindi sicuramente non si possono fare troppe previsioni, però staremo a vedere. Non so se voi avete qualcosa da chiedere, da aggiungere, da dire, se no se tu vuoi insomma aggiungere qualcosa, se no per noi può andare bene, dici. Vabbè, tu penso che ho parlato abbastanza, se non avete domande specifiche mi trattengo, se no poi va a finire che parlo di tutto e di più e... Va bene, poi ti richiamiamo microfoni spenti allora per il resto. E niente, ti ringraziamo davvero per il contributo, anche per la precisione con cui ci hai esposto insomma una serie di cose, e speriamo di vederci presto. Sono io che vi ringrazio per tenere comunque alta l'attenzione su queste faccende, ovviamente sulla Cassazione che ci sarà, anche se non è il terreno su cui ci piace confrontarci, no? Questo lo sappiamo. Quello è quello che ci dobbiamo accollare per forza, così. Quello ci tocca. Va bene, un abbraccio e a prestissimo. Ciao ciao. Grazie a tutti voi, a risentirci. Ciao ciao ciao. Ciao. Vabbè, insomma, un intervento importante, interessante, e insomma constatare che l'intelligenza che porta a pianificare un'opera è mossa da motivi di sicurezza e quindi di stampo militare, quindi che un'opera è progettata su esigenze di natura militare, direi che insomma è un elemento interessante, sia insomma rispetto a chiarire in che tempi viviamo, e sia anche rispetto a chiarire che forza ha avuto un movimento che insomma per contrastarlo c'è necessario un intervento che anche se non si nota sempre, ma insomma è mosso da un'impostazione di tipo militare. E sicuramente una lotta, diciamo questa, per concludere un attimo questo intervento, questa lotta Notav, che dimostra degli aspetti paradigmatici rispetto ai tempi nei quali viviamo, perché anche se diciamo si è mossa in una zona periferica del territorio, in realtà appunto come possiamo intuire da questo intervento solleva degli aspetti che ci riguardano tutti in qualsiasi luogo viviamo, e in particolare quello dell'uso della forza per garantire gli interessi del capitale, e in particolare della militarizzazione del territorio, e quando parliamo di militarizzazione specifico intendiamo proprio la presenza di militari dell'esercito vero e proprio, che sempre sempre di più viene utilizzato in funzione di ordine pubblico, sia nel controllo dei migranti, nel controllo dei territori e nel garantire il proseguimento di opere nocive. È sicuramente un aspetto fondamentale, una novità di questi tempi, che diciamo, se non inquietante, perlomeno potremmo definire preoccupante e da monitorare, di come diciamo appunto ci sia un totale disprezzo per gli interessi della popolazione, per le volontà delle popolazioni, ma si guardi solo l'interesse appunto delle esigenze capitalistiche di sistema e si è disposti a passare sopra qualsiasi interesse locale. Questa è la realtà, poi al di là di tutto quello che si voglia dire della cosiddetta insomma sistema democratico, del regime democratico nel quale attualmente viviamo. Questo l'abbiamo constatato in tantissimi luoghi, non a caso appunto quello che accade in Val di Susa è identico a quello che accade in Puglia per quanto riguarda il TAP, ma è anche uguale, ha molte similitudini con quello che vediamo nel mar, accadere quotidianamente nel mar Mediterraneo, dove appunto le persone vengono trattate come un problema di natura militare, come vediamo nelle stazioni della metropolitana delle nostre città, dove c'è la presenza di uomini armati, non si capisce bene con quale funzione. Insomma, questo lo vediamo sempre più spesso. È altrettanto paradigmatico comunque l'esempio di questo movimento, il movimento della Val di Susa, che ha saputo esprimere tutta questa forza, un movimento sicuramente su cui bisogna molto riflettere, perché ci dà sicuramente un'immagine di quella che è la lotta nel presente, ma anche di quelle che saranno le lotte nel futuro prossimo, quel tipo di aggregazione che si è riuscito di forza, che si è riuscito a esprimere in quella lotta. Restano comunque un esempio rispetto a quello che andremo a affrontare nei prossimi anni. Io direi che, così per chiudere, direi che anche a distanza di anni, anche di partecipazione a lotte del genere, senza dover fare insomma chissà quale bilancio, sicuramente le intuizioni che c'erano dietro la partecipazione, anche insomma molto forte, veramente anima e corpo a queste lotte qui, erano abbastanza corrette, viste poi anche, no, tutto quello che è successo negli anni successivi. Insomma, mi sembra che si stia, tanti discorsi che si facevano, che ci facevamo tanti anni fa, si sono arrivati diciamo a una sistematizzazione davvero incredibile, forse non ce l'aspettavamo nemmeno così forte e così massiccia, però insomma sicuramente continuare a seguire questo tipo di situazioni che appunto magari inizialmente erano state anche connotate molto come lotte locali, in realtà poi ci ha dato anche la possibilità di invece di mettere insomma in schema tutta una serie di problematiche e che comunque nelle lotte affrontiamo tutti i giorni. Io direi che, se siete d'accordo, ci prendiamo una pausa musicale, chiudiamo anche su questo, insomma, su questo lungo approfondimento che abbiamo fatto rispetto al NOTAV, e prima di chiudere questo tema magari rilanciamo ancora. Sì, rilanciamo il presidio, visto che poi il motivo per cui ci ha portato poi a fare questa puntata era lanciare questo presidio, ricordiamo, presidio per la Cassazione sui fatti del 3 luglio 2011 che riguardano la lotta no TAV, gli estremi dell'appuntamento che rilanciamo a tutti i compagni, a tutte le persone interessate alla lotta in Val di Susa, di dare il loro contributo e portare solidarietà alle persone sotto processo, che sono molte ma che in realtà rappresentano un'infinità più grande di tutte le persone che avevano lottato, e quindi queste persone pagano per tutti quelli che hanno lottato in valle e rischiano di pagare. Insomma, quindi l'appuntamento è per mercoledì prossimo 11 aprile 2018 alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 15 a Piazza Adriana, che appunto è attigua a Piazza Cavour, quindi nel centro di Roma, una giornata di solidarietà con gli imputati per il processo NOTAV, e quindi appuntamento a mercoledì mattina prossimo. E possiamo concludere questo lungo spazio dedicato alla lotta NOTAV per riprendiamo con gli altri argomenti, e in particolare cominceremo a parlare del sistema dei campi al prossimo intervento, quindi un po' di musica, poi torniamo in studio con Silenzio Assordante.